Allora, anche oggi, insomma, giorno di festa, non si finisce mai però di lottare, appunto. E, insomma, prima abbiamo ascoltato quelle che sono ancora le proteste che stanno accadendo, che stanno continuando all'interno del CIE di Ponte Galeria, al contrario di quello che scrivono i giornali romani, in particolare il Messaggero, che qualche ora fa aveva detto, insomma, annunciato che le proteste si erano fermate perché i reclusi si erano rivolti al Papa. Questo non è vero, l'abbiamo appena sentito, appunto, che le proteste continuano ad esserci reclusi che si sono cuciti la bocca, continua lo sciopero della fame, e, insomma, per protestare contro queste reclusioni, appunto, allucinanti. E con te un po' volevamo parlare, tu recentemente, insomma, all'inizio di dicembre hai fatto questo articolo intitolato "Guerra ai migranti e alle migrazioni". Si parla ancora dell'operazione Mare Nostrum. Napolitano nei giorni scorsi, non so se addirittura oggi o ieri, ha annunciato questo fiore all'occhiello della politica italiana e dei nostri militari. Volevamo un po' con te capire innanzitutto cosa stava continuando a succedere a Lampedusa, al di là, insomma, delle proteste dei rappresentanti del PD, insomma, anche un po' ipocrite in questo momento, e un po', insomma, anche capire come stava continuando questo controllo del Mar Mediterraneo e delle coste al di là dell'Italia, contro, appunto, le persone che migrano. Ma allora, innanzitutto, le notizie recentissime sono che l'ennesima deportazione verso diversi aeroporti, diversi scali, delle persone che venivano recluse a Lampedusa. Ovviamente è top secret sulle destinazioni, non si sa assolutamente se si tratti di centri di accoglienza o dei famigerati CIE, a dimostrazione che di fatto ormai l'habeas corpus per i migranti e richiedenti asilo è un diritto che viene assolutamente negato, un principio che viene negato. Contemporaneamente il giro di vite nei processi di militarizzazione del Mar Mediterraneo, innanzitutto da parte delle forze aeronavali italiane, prosegue, continua, anzi aumenta, si sviluppa anche attraverso trattati e accordi sottoscritti con le forze armate dei paesi del Nord Africa, particolarmente la Libia, ma anche con altri paesi della sponda nord del Mediterraneo, penso alla Slovenia, la Grecia, Cipro, eccetera, per intensificare il controllo e la vigilanza del Mediterraneo, stavolta con una prospettiva che rappresenta un salto di qualità negativo, non soltanto il blocco nel Mediterraneo, ma di fatto il tentativo di impedire che le barche partano, lascino la costa sud, la costa nord africana, e di fatto con operazioni aeronavali, e penso particolarmente l'utilizzo dei droni, che servono a intercettare i flussi dei migranti prima che essi arrivino alle coste mediterranee e si possano imbarcare. In questo senso l'utilizzo dei Predator, l'autorizzazione concessa dalle autorità libiche ai droni italiani di poter sorvolare l'intera Libia sino al confini con il Sudan e confini con il Chad, serve proprio in questo senso a impedire che i migranti possano lasciare l'Africa, di fatto consegnandoli direttamente alle forze armate libiche, ovviamente facendo fare il gioco sporco che un tempo veniva fatto direttamente alle forze armate Frontex nel Mediterraneo. Senti, quindi diciamo che, insomma, finalmente viene alla luce anche tutta la questione, insomma, post Gheddafi, del controllo del Mar Mediterraneo da parte della Libia. L'Italia, come sappiamo, ha diversi contingenti anche militari proprio in Libia, e questo va a ledere anche su tutta una questione che è il diritto d'asilo, che in qualche maniera, insomma, i paesi del Mediterraneo, oltre, insomma, tutta l'Europa, dovrebbero concedere a chi in qualche maniera va via dal proprio paese e chiede asilo in un altro. Ma ovviamente la logica è, dopo non aver dato nessuna risposta, aver violato i principi di diritto d'asilo per i pochissimi superstiti che riuscivano ad attraversare i naufragi del Mediterraneo, ora si tenta di risolvere a monte il problema del diritto d'asilo, di fatto non facendo più arrivare nessuno in Europa. Quello che è in atto con l'operazione Mare Nostrum è un vero e proprio laboratorio sperimentale, tentare in tutti i modi di impedire le partenze. In questo modo ovviamente non si darà la possibilità di arrivare, pertanto si risolve la questione di diritto di asilo senza assolutamente dover modificare le norme esistenti oggi nel nostro paese. È un fatto gravissimo, e l'Italia in questo senso è la punta di diamante di tutto il dispositivo europeo, in questo senso anche più avanti rispetto Frontex, rispetto a questa famigerata agenzia dell'Unione Europea che impedisce flussi ai migranti e viola direttamente i diritti umani e il diritto d'asilo. Senti una cosa, ma vengono costruiti, cioè come si vieta alle persone poi di partire, oltre al controllo delle navi, penso insomma delle coste e via dicendo, sono stati costruiti anche dei luoghi di reclusioni, penso in Libia piuttosto che nel Nord Africa, dove vengono rinchiuse le persone, come funziona? Insomma, non è così facile poi, così insomma anche tranquillo controllare questi flussi, queste insomma, persone no, che sono sempre... Ovviamente, cioè, non è assolutamente pensabile di bloccarli, però l'operazione in atto è quello assolutamente di ridurre, impedire in prospettiva le partenze. In questo modo, di fatto, delocalizzando i centri di detenzione nel continente africano, in questo modo di fatto facendo sparire quelle immagini drammatiche che abbiamo visto da Lampedusa. In questo modo, ripeto, l'Europa risolverebbe due problemi. Risolverebbe il problema del diritto d'asilo, di fatto negandolo a tutti, perché non ci sarebbe più nessuno che potrebbe chiederlo. Secondo, ovviamente, trasferendo in Africa quelle operazioni di detenzione in netta violazione dei diritti umani che sino a questo momento venivano compiute nei centri di accoglienza o nei CIE in Grecia, nei paesi della sponda sud del Mediterraneo. In questo senso vere e proprie carceri a cielo aperto esistono oggi non soltanto in Libia, ma penso a altri paesi del Nord Africa, particolarmente la Tunisia, l'Algeria, e con cui di fatto si stanno ulteriormente sottoscrivendo accordi bilaterali e anche multilaterali di contenimento e di controllo dei flussi migratori. E possiamo anche immaginare che nella prospettiva di far intervenire le forze armate libiche direttamente nel deserto, possiamo immaginare che la prospettiva è quella di moltiplicare quelle vere e proprie fosse comuni che sono state scoperte nel deserto, dove sono stati fatti morire i migranti intercettati nel Sahara. Credo che sia questa la prospettiva cinica su cui si sta operando, e ovviamente in questo senso permetterebbe anche ampli risparmi nella gestione dei centri di detenzione, di fatto trasferendoli direttamente e consegnandoli alle forze armate dei paesi della sponda africana. Un po' questa politica appunto di non far vedere poi appunto la disumanità di quello che succede ai migranti quando arrivano alle nostre coste, quindi anche tutto quello che è successo insomma a Lampedusa negli ultimi mesi. Senti, volevo tornare un po' anche a Lampedusa, tu prima hai parlato, insomma si è svuotato, così insomma ci dicono i giornali, Lampedusa si è svuotata, sono partiti gli aerei per i rimpatri, giusto? Allora, formalmente non per i rimpatri, perché sappiamo che gli aerei partiti hanno raggiunto aeroporti italiani, aeroporti come quello di Palermo e altri aeroporti del centro-sud Italia, esattamente, del centro-sud Italia, nella dichiarazione formale di trasferire in altri centri. Su questo però, ripeto, viene mantenuto il top secret da parte del governo, non sappiamo se si trattino di centri di smistamento, di centri di prima accoglienza, non sappiamo se verranno utilizzati gli SPRARA, temiamo che in questa logica di segretezza, in questa logica ulteriore di repressiva di polizia militare, c'è il rischio che di fatto queste persone vengano, nonostante siano richiedenti asilo e sono persone che fuggono da conflitti drammatici o Medio Oriente o in Nord Africa, c'è il rischio che vengano assolutamente detenuti nei famigerati CIE sparsi nel nostro paese, proprio perché di fatto manca un'azione trasparente, un'azione di fatto c'è una militarizzazione a 360 gradi del problema richiedenti asilo e del problema migranti, sia attraverso l'operazione Mare Nostrum e ovviamente con queste deportazioni mano militari negli aeroporti italiani. Senza contare il fatto che comunque nessuno delle famiglie di queste persone viene avvertita degli spostamenti, quindi sono comunque persone totalmente in balia degli apparati appunto repressivi italiani, senza nessuna possibilità di avere, che ne so, un appoggio di un avvocato, di persone esterne, contatti con le famiglie, assolutamente niente. Infatti questa è la cosa paradossale e gravissima, che oggi diritti che vengono riconosciuti nel sistema carcerario italiano, dove non è possibile trasferire le persone detenute senza che vengano messe a conoscenza i familiari, gli avvocati eccetera, oggi questo può essere fatto nel nostro paese con chi avrebbe diritto alla protezione internazionale, cioè esattamente i rifugiati e i richiedenti di diritto asilo. Oggi questo viene fatto e viene negato alle organizzazioni non governative, agli avvocati eccetera, di sapere innanzitutto dove vanno a finire queste persone, lo status giuridico dei centri in cui loro vengono deportati. Ed è un fatto, ripeto, gravissimo, ma che di fatto conferma che ci troviamo in guerra. Quando si è in guerra, i diritti più elementari vengono assolutamente sospesi o cancellati. È una guerra, c'è una guerra ai migranti e ovviamente il governo si comporta esattamente come un paese belligerante. Questo insomma non viene denunciato neanche dal deputato del PD che si è fatto rinchiudere nel CIE di Ponte Galeria. Lui è tornato libero, però poi non è che ha dato condizione o ha detto dove sono stati portati, scusate, nel CIE di Ponte Galeria, cioè a Lampedusa, non è che ha detto dove sono stati portati gli altri reclusi. Una volta insomma anche qui una facciata di chiusura di quello che succede a Lampedusa, del luogo di reclusione di Lampedusa, però poi insomma quello che è l'itinere di queste persone non importa niente a nessuno. E il governo italiano in questo insomma diciamo che è appunto altamente responsabile. Mi sembra anche qui insomma oggi i giornali, capito, intitolano finita la protesta a Ponte Galeria, chiuso i luoghi, insomma i CIE a Lampedusa, tutto è tornato normale, quanto siamo bravi non so. Ma per questo dicevo che la mia profonda preoccupazione è che si punti a una delocalizzazione dei centri di detenzione. Bisogna assolutamente ridurre l'attenzione mediatica, ridurre l'attenzione popolare rispetto alla violazione dei diritti umani all'interno di questi centri del nostro paese. Io credo che ci sia il prossimo passaggio sarà quello di trasferire questi centri in paesi il più possibile lontani, di fatto facendoli gestire direttamente ai famigerati regimi africani. Va bene Antonio, noi ti ringraziamo come sempre per le tue corrispondenze sempre chiare e lucide, ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni perché tanto la questione insomma non è finita e non finire qua. Buon lavoro, grazie.